È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Fatima dare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Uscire dalla scuola. Sì, è vero, caro David. È il giorno in cui hanno arrestato il signor Fiorito, che noi volevamo far diventare editorialista della Zanzara. È vero, hai ragione tu, dovremmo parlare subito del caso Fiorito e ne parleremo. C'è tempo fino alle 21. È arrestato, forse grazie anche all'avvocato Taormina, che naturalmente. Grazie, non lo so, non direi. Con il contributo fattivo, forse, vabbè, glielo chiederemo dopo. Comunque, in manette a Regina Celi, E ha detto, tra l'altro, meglio a Regina Celi che nel PDL. Beh, insomma. Sì. Non è una grande, come dire, propaganda nei confronti del partito dell'ex presidente del Consiglio, se esiste ancora un partito, se esiste. No, forse voleva dire che ci sono più persone oneste dentro Regina Celi che non dentro il PDL. Però vabbè, come al solito tu devi dare sempre queste interpretazioni. Non voglio interpretare le parole. Però dicevo, si potrebbe fare il partito degli onesti a Regina Celi. Vabbè, una stronzata, su. Dicevo, è il giorno di Fiorito, però colpisce molto, caro Parenzo, dopo otto mesi, l'intervento al Consiglio regionale della Lombardia di Nicole Minetti, che è tornata a parlare dopo 8 mesi. Indovina di cosa ha parlato, tu non lo sai sicuramente. La signora Minetti? Sì, non lo sai. Non ha lo sai parlato perché di mutande, di recicalze. No, ma dai, non farlo spiritoso. Tu non lo sai perché non ti sei informato, come al solito. Non ti sei informato abbastanza, a sufficienza, su quello che avviene. Ma le agenzie le guardi o no? Cioè, le notizie le guardi o non le guardi? Va bene. Tutto il giorno. Ma non è vero, se non lo sapresti. Le crisi industriali di ma questo quali paese, crisi però? Industriali? Ma quali crisi industriali che non mi sai nulla? Ogni giorno è intervenuta sul latte materno. Cosa? Sul latte materno, vuole istituire una banca del latte materno. Vabbè, ma vado questo ai matti. No, ma questo invece, poverina, invece ma su dai, questo su, ma di che stiamo parlando? No, sentiamo. Ma su questo c'è da fare poca ironia. Ma sciocco. Sentiamo comunque. Sciocco. Io non dico più parolacce d'oggi, sciocco. Dai. Sei sciocco. Dai, su. Perché sul latte materno, perché? Stai zitto, questa sentiamo. La banca del latte umano è un servizio istituito per raccogliere, controllare, pastorizzare e dispensare il latte donato da madri nutrici volontarie che sono diverse dalla madre biologica del lattante, la quale per vari motivi non può allattare il proprio figlio. Poi sulle patologie materne del latte. Bisogna tenere conto che possono esistere patologie materne che inducono ipo o agalattia o anche patologie materne nelle quali addirittura controindicano l'allattamento. Per una madre che non può quindi fornire il latte al proprio figlio, il latte proveniente dalla banca del latte è la migliore scelta nutrizionale per il lattante. Ma dai, su! Parenzo, non mi dire che sono cose serie queste, dai, su! No, maestro, non si può passare dalla passerella al latte materno in aula, un'intervista di un intervento dice tutto tecnico, dai, no, su. Vabbè, ma magari su questo, io però voglio dire, sono molto meno stronzo di te in questo, perché se su quella materia lei si è concentrata, ha studiato, voglio dire, benissimo, si occupa di una cosa che è molto femminile, molto importante, che è la questione dell'altra materia, ma ben venga, ma va benissimo, cioè non possiamo applicare sempre logiche di cinismo sfrenato. Però la notizia è un'altra, io e il signor Parpiglia, collaboratore della Zanzara, Parpiglia, con conosci il signor Parpiglia? Parpiglia, come? No, no, famosissimo Parpiglia, ho letto molte cose di lui sui giornali. Benvenuto signor Parpiglia, benvenuto signor Parpiglia. Signor, si può chiamare come in Veneto, signor Parpiglia. Sì, sì, chiamalo come un vuoi. Un po' come Pazzaglia, ti ricordi Pazzaglia, quello di avanti tutta lì, con anche degli amici, ti ricordi Pazzaglia? Vabbè, insomma, abbiamo intercettato. Signor Parpiglia, chi ha intercettato il signor Parpiglia? Abbiamo intercettato Nicole Minetti, che ci ha dato una notizia, cioè che resta al Consiglio regionale della Lombardia fino al 2015. Capito? Cioè non no, si dimette, resiste. Grande come esclusiva di Parpiglia alla Zanzara. Sì, diciamo così, sì, certo, sentiamo. Nicole, ti sei pentita da consigliere regionale di aver sfilato in costume? No, ma va, non mi pento mai io. Mai? Non ti sei mai pentita di nulla? No. Ma se tornassi indietro, lo rifaresti? Risfilerei. E ti hanno attaccato tutti, dai, all'interno del PDL soprattutto. È un trend, sì. Se ti attaccano poi vanno sui giornali, questo è il senso. È moda? Eh sì, un po' sì, dai. Ma la domanda principale è questa, resti fino al 2015? Consiglio regionale, certo, 2015, fine legislatura. Dunque sei sicura? Non ti dimetti prima? Certo che resto. Resisto. E ci mancherebbe altro. Ma una curiosità, l'imitazione di Virginia Raffaele, ti è piaciuta o no? Ho riso dall'inizio alla fine. Sì, fa ridere. Lei è talentuosa, bravissima. Cioè, praticamente tu dici che la Raffaele ha un talento. Sì, ha un grande talento. Ma la notizia è un'altra! Questa è la notizia vera, però la notizia però più... devo riconoscere che sentire la voce alla zanzara della signora Minetti, beh, un po' eccitante lo è. Bravo Parpiglia. Anche perché, chiamalo così, bravo. Parpiglia, amico mio! Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Perché anche il nome del cognome è molto bello, Parpiglia, che è uno pseudonimo immagino, no? Beh certo, assolutamente sì. Senti una cosa, però ti faccio... lo sai perché abbiamo dovuto fare questa intervista? Ha dovuto fare questa intervista? Perché in realtà qui non verrà mai, perché ha paura di noi. Senti. Mi fa paura. Come ti fa paura? Sì, mi fanno paura. Ti ma giuro. Non sono così male, ti giuro. No, ma mi fanno paura. E va bene, 800-24 800-24 Fiorito contro Barbato, ieri sera. Grande spettacolo da Paolo Del Debbio. Il suo partito che era presente sì. Anche i numerosi incarichi non era così attento sì, come Fiorito, lui però Fiorito voglio, tipo aspetta, voglio dire una cosa scenata particolarmente napoletana sì. Per distogliere l'attenzione sì, sì. Ha cercato ora di dai magna magna a cui sei abituato in Italia questo tipo di magna magna la chiami guardi, buffonata invece penso che gli italiani il magna magna che ci hai fatto vedere caro lei. Batman vai a lavorare non mangiare i soldi pubblici quando andare in vacanza, paga tu, paga l'albergo, paga il ristorante, paga le spese. Sono geloso. Ancora, c'è da mettere, c'è da sentire qua. Sei un ladro! Tu e tutti i politici come te, che state nelle istituzioni solo per rubare e fare i cazzi vostri! Va bene. Ora, fermo Fiorito. Consiglio Del Debbio che godeva come un pazzo, godeva come un pazzo. Ma adesso ho capito perché l'hanno arrestato. Perché? È andato la quinta colonna, l'hanno arrestato subito. E il bello è che oggi Taormina ha detto forse l'hanno arrestato anche per una eccessiva sovraesposizione sì. Mediatica, ma chi ce l'ha mandato in televisione? Troppa sovraesposizione. Dopo glielo chiediamo, 800-24-0024, la Zanzara è con noi un grande intellettuale, caro Roberto, ho invitato un personaggio... Oh, finalmente, sarà sicuramente, sai che è veramente un grande, ho letto un suo saggio, dimmi, grandissimo Aris Saccornero, che no. È professore emerito di sociologia industriale alla facoltà di Roma. Assolutamente no. Non è lui. No, allora deve essere Gambino che si occupa molto no, anche di temi assolutamente, legati. Assolutamente. No. No. Potrebbe essere, forse un semiologo. No, assolutamente un, no. Un grande semiologo. No, assolutamente. Allora comincio un po' a tremare. Ma chi so, magari anche qualche grande intellettuale dell'intelligenza americana, no? Sigmund Bauman potrebbe essere il grande semiologo. Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, buonasera. Buonasera, grazie dell'intellettuale. Parenzo? Che c'è? Che è successo? È un crollo. Parenzo è crollato. Che è successo? Parenzo? Lo saluto. Che hai fatto? Hai scaricato il cesso? E perché hai scaricato il cesso? Addirittura. È il mio saluto romano. Ma che fai? Scarichi il cesso un'altra volta? E aspetta, il saluto romano. Si è bloccato perché una subito dopo sì. La seconda non riesce. Esatto. Ma lo saluti o no? Stavolta hai fatto un passo avanti. Saluti Roberto Fiore che si dichiara. L'ho salutato col saluto romano, col ciclo. Cioè, non lo riconosci come interlocutore? No, siccome è di Forza Nuova, è diciamo fascista, si può dire così. Diciamo, signor Fiore. Fascista, antisemita ed è è tutto ciò che l'umanità non dovrebbe essere. Per cui. Vabbè, adesso le idee, anche le più aberranti, devono avere. Io adesso non do giudizi. Devono esistere, devono essere. Dipende, se uno propone una città di morte, non credo. Vabbè, lo sai che cosa è successo al figlio di Alemanno, il signor Manfredi? 17 anni. Romano, sì. Ha fatto il saluto romano, era bravissima Lucia Annunziata, ha pubblicato sì. sul mitico Huffington Post sì. La foto del signor del giovane. Ha pubblicato, hanno preso da Facebook una foto e hanno tirato fuori sì. questa vicenda qui, cioè la foto è di Facebook. Ha fatto vergognare il sindaco ovviamente. Ma io non ci trovo niente di male, lo sai? La notizia è quella, è il sindaco di Roma che ha detto... Che si vergogna del figlio, eccetera. Sì, quello è il punto. Signor Fiore, lei quante volte fa il saluto romano? Figurati. Innanzitutto vorrei dire due parole sul Parenzo che è un po' out of control oggi, scarichi... Beh, quello sempre. ...cose del genere. Vabbè, comunque, scarico di cesso l'ha fatto per lei, che cosa... appunto, un po' out of control, di solito un interlocutore, un ancora non fa questo tipo di cose. Ancora, dunque, scarica il cesso ancora. È un eccedente, un passaggio in avanti rispetto all'ultima volta. Ma lei lo sa che è ebreo? Sì, è certo che lo so. Io conosco bene David Parenzo, ho fatto dei dibattiti con lui, ero un po' meno confuso di queste ultime volte, però l'ho fatto di una volta che abbiamo fatto un dibattito, mi sono alzato e me ne sono andato via, infatti. Dice... Ma come è andato via? Ma infatti secondo me è tutta una farsa. Non se ne... sono allora, andato, abbiamo pure parlato dopo, vedi? Questa forma di razzismo al contrario, no? Che è tipico di certi personaggi, per cui tu sei, ha detto due o tre cose, sono fascista, a parte che io sono forza novista, poi vabbè, fascismo quello. Mi sono sempre espresso positivamente su molti temi, quindi non mi sono nascosto di un dito. Ma lo leviamo questo reato? È corretto, vabbè, adesso non ci addentriamo. C'è una differenza. Lo togliamo questo reato di apologia del fascismo, come ma dicono certo, alcuni o no? È un'idiozia, ma non ha nessun senso. Capito Parenzo, un'idiozia, antistorico. Lo sai che io incredibilmente, io non ho paura di dirlo però, la penso come Fiore. Cioè io la penso come lo dico apertamente sul reato, ma adesso ci sono alcune cose. No, il 60% degli italiani no, perché gli italiani se ne fottono, Fiore, abbia pazienza. Cioè. Giusto, di quelli che vogliono rispondere a una domanda del genere, il 70% dice sì, non ha nessun senso. A parte che vuol dire, il saluto romano ha un senso anche, vuol dire, ha un'origine storica, viene da Roma, non viene dal fascismo. Non è che è scritto a Forza Nuova il signor Alemanno, Manfredi Alemanno, no? Scusi? Frequenta Forza Nuova il signor Manfredi Alemanno? Non frequenta Forza Nuova, però mi trovo Casa a dover difendere stasera perché è oggetto del tipico atteggiamento, cioè con tutto rispetto per la giornalista Annunziata, non si è comportata da madre. E perché? Una madre non mette il figlio a 17 anni che fa saluto romano sul coso. Ma non è un figlio qualunque, signor Fiore, è il figlio del sindaco di Roma. Se ha figli c'è un rispetto in più che si deve al figlio. Ho capito, Fiore, però... È mancata di sensibilità l'Annunziata, questa, ma quantomeno è mancata di sensibilità, probabilmente anche è stata scorrettezza professionale. Però poi, scusi, io su questo non è che la difendo per forza perché è una giornalista, io dico, è una notizia o no che il figlio del sindaco di Roma fa il saluto romano? Assolutamente no. Ma come no? È una notizia, no, poi a me non me ne frega nulla. Quello che mi risulta ha una è un militante, un simpatizzante, quindi... Di che cosa? Di che cosa? È un giovane di 17 anni che viene fuori da una zona particolarmente, diciamo, storicamente di destra, di estrema destra, come penso Vigna Clara, Balduina, Pariola, eccetera, che fa il saluto romano, ma dov'è la notizia? No, ma che non sia un... che oggi sta a sinistra, al centro, io ho visto fare il saluto romano quando erano giovani, non sono notizie, è irrilevante, mi dispiace, l'Annunziata è caduta proprio su una buccia di banana. Comunque i figli non c'entrano, il discorso sui figli o sui ragazzi non c'entra nulla, perché il problema è che il figlio del sindaco di Roma deve stare attento anche quando cammina, questo è il punto, a non fare stronzate, e questo oggettivamente per il padre è una stronzata, altrimenti il padre non avrebbe preso le distanze. O lei giudica male anche Alemanno, ma vado oltre, ma come fa il padre a prendere le distanze? Come fa il padre? Cioè doveva rivendicare. Ma da giovane Gianni Alemanno non ha mai fatto il saluto romano. No, ma lo dica lei, che ha fatto? Che ha fatto da giovane? Lei lo conosce bene? Ma perché non ha fatto mai il saluto romano? Lo conosce bene Alemanno, lei? Se veniamo dalla stessa generazione, dalla stessa zona, eccetera, ma eravamo sempre in distinti gruppi. Le zanzare di casa mia si nutrono di... Eccoci qui, 18:51, 800 24 00 24. C'è in Italia un po' di gente, caro Parenzo, arrenditi, che rivendica il diritto. Il cesso, di nuovo stai scaricando il cesso. Perché? Che è successo? David? Sì? Perché hai scaricato il cesso? Cioè finché c'è in onda Fiore di Forza Nuova scarica sempre il cesso. È la mia battaglia non violenta nei confronti di una persona che rimarrà nella storia una formica, che vive a Londra, che è miliardario. No, viveva a Londra, non manco viveva lo sai. Viveva a Londra, fa il miliardario. Ci sono rimaste talmente poche idee. La prossima volta che stanno i Rutti, mi accoglierà con i Rutti, ma... Cioè, miliardario, rivoluzionario. Parenzo, si deve civilizzare. Poi miliardario rivoluzionario. Ma perché non viene giù lo scarico sempre? Miliardario rivoluzionario, finto rivoluzionario, miliardario, sì, sì. Che si è, amico di terroristi, amico di terroristi. Attenzione, querela, querela, querela. Dica a Parenzo che io ho fatto negli anni le centinaia di migliaia di euro grazie ai giornalisti un po' scemetti, come purtroppo stasera Parenzo, purtroppo ci sono le serate, no, per le fesserie che hanno detto, e lui sta iniziando a dire, quindi lo avvenisce. Comunque lei quante volte, perché lei non ha conosciuto persone implicate nel terrorismo, ma lei l'ha nero? Conosciuto, ma l'altro giorno stava facendo l'apologia di Fioravanti, ma che sta dicendo? Lei ha conosciuto mai persone? Lei ha mai conosciuto persone? Però che questo sono è vero, ma conosciuto per tutti. Ma Susi, lei sa che nel Parlamento siedono almeno 15 persone che hanno avuto procedimenti e condanne del mio stesso tipo in quel periodo? Sì, sì, lo sappiamo bene. Certo, E allora di che stiamo parlando? Scusi, Fiore, io che ho detto, come ho detto riconosco che io. Anzi, lei è stato capace di fare l'apologia, l'altro giorno l'ho sentita, faceva ridere, a Valerio Fioravanti. Ma di che stiamo parlando? Certo. Lei dice suo amico degli dei terroristi. È un pensiero oramai che è svanito del tempo. Scusi, Parenzo, è arretrato. Scusi, Fiore, stai zitto. Vuoi stare zitto un attimo? Voglio chiedere a Fiore una cosa: è meglio fare il saluto romano che il pugno chiuso in ogni caso? Guardi, le dico questo, certamente sì, ma aggiungo questo, è meglio un ragazzo impegnato a sinistra che una banda di persone che oramai non pensano niente, vanno in discoteca, si prendono l'ecstasy o ma questa è una generalizzazione. Meglio quello col pugno chiuso e certamente molto meglio quello che apre la mano. Però scusi un attimo, il problema è uno solo, mette nei guai il padre, dunque il padre è un po' un mezzo traditore secondo lei. Ma il padre c'ha altri problemi da risolvere, se lei vive a Roma, mi sembra che vive a Roma. No, vivo a Milano, vivo a Milano per fortuna. Ah, ok, però è romano mi sembra. Sì, sa benissimo che Roma è una città al punto del default, disastrata in tutti i sensi. Io penso che il padre dovrebbe, cioè sono sicuro che in questo momento è concentrato più su altre cose perché sto cosa non potrà risolvere. Ma lei questo monumento al generale Graziani, molto criticato, fatto ad Affile, naturalmente lo esalta Fiore, no? Cioè sulla piazza centrale di Mosca c'è il monumento a Zhukov, che è quello che ha fatto non so quanti stragi di cose di vabbè a Mosca, eccetera. Ma mica bisogna copiare, mica bisogna copiare. No, le dico questo, una nazione seria ricorda i suoi combattenti anche se sono stati magari ma questo è un massacratore sbagliata. Un massacratore di è stato anche c'è in corso diciamo tutta un esame storico. Allora, senta dobbiamo concludere Fiore, un secondo solo, ma quando Vendola dice che vuole essere genitore, che effetto le fa? Concludo il discorso di prima. No, mi deve dire questo. C'è il monumento a una persona che ha fatto il bombardamento a Dresda, su Whitehall. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Lo sai qual è la cosa più scandalosa, David, di tutto questo che sta accadendo alle regioni italiane? Con grande ritardo, perché i costi delle regioni erano chiari sin dall'inizio. Lo sai qual è la cosa più scandalosa, David? Qual è, secondo te? È che i consiglieri del Lazio uscenti, che hanno aumentato i fondi a disposizione dei gruppi da 1 a 14 milioni e dovrebbero vergognarsi tutti dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo, prenderanno anche la buonuscita, una sorta di vitalizio, una sorta di... No, di ricompensa, 30.000 euro cada uno alla fine della legislatura. In virtù di che cosa? In virtù della legge, no? In virtù di che cosa? In virtù della legge, lo prevedono le norme, c'è anche la buonuscita, oltre al vitalizio, che è stato dato anche agli assessori esterni in questa legislatura, c'è anche la buonuscita, una sorta di liquidazione, capito? Beh, dovrebbero rinunciare. Ma sì, rinunciare. Dovrebbero. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. È in carcere Franco Fiorito, l'ex tesoriere del PDL laziale. In cella c'è gente migliore che nel mio partito. Nel suo tritacarne i resti di fatture distrutte. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per corruzione, Filippo Penati glissa sulle dimissioni da consigliere regionale e dice: ho chiesto io di andare a processo. Legge anticorruzione, Severino sia cambiamenti, d'accordo con il PDL, ma niente modifiche salvarubi. Schifani in aula in meno di 2 settimane. Nichi Vendola annuncia la sua partecipazione alle primarie del centro-sinistra, sia in occasione per una svolta del paese. Sulle alleanze, scontro PD Casini. Legge elettorale, mediazione di Calderoli, il testo giovedì al Senato. Bersani, se puntano alla balcanizzazione per favorire il governissimo, io mi tiro fuori. La Spagna rivia ancora le richieste di aiuti all'Europa, non è imminente, dice il premier Rajoy. Napolitano a Madrid, smentite le previsioni nere sull'euro. Parla il maggiordomo del Papa al processo in Vaticano per il furto e la diffusione di documenti riservati. Nella gendarmeria sono stato maltrattato. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, come una muchachita. Beh, ci sono diverse cose da farvi ascoltare, eh. Esilaranti, esilaranti. La prima è questa, Polillo. Te lo ricordi il sottosegretario Polillo, no? L'ottimo Polillo, come dimenticarlo. Quello che disse qui alla Zanzara che bisognava, che per diventare sottosegretario, viceministro, sì, quello che è, ha consegnato un curriculum a Cicchitto che poi l'ha trasmesso a Monti, eh. Certo. Dobbiamo sempre ricordarla questa cosa. Aveva anche detto in quell'occasione che Berlusconi era stato perseguitato peggio di Al Capone, ti ricordi? Come no? E poi no, che meritava, che insomma meritava, che non ci sarebbe stato niente di male a farlo Presidente della Repubblica. Gliel'hanno richiesto, senti come ha risposto sulla Zanzara, roba da matti. Sottosegretario Polillo, le voglio chiedere una cosa, mi pare che lei, non vorrei sbagliarmi, tempo fa alla Zanzara su Radio 24, a proposito di Berlusconi, disse lo vedrei anche bene come Presidente della Repubblica, o sbaglio io? Sì, o ma ricordo era... male? No, ricordo benissimo, era una trasmissione un po' in cui si giocava. Sì, no, ma le ho chiedo per questa premessa per chiederle una cosa. Cosa pensa dell'attendismo in questo momento in Berlusconi? Si giocava il curriculum a Cicchitto. Ma di che stiamo parlando, Polillo, amico nostro, amico mio? Non si gioca per nulla qui. Lei non giocava per niente in particolare quel giorno, eh. E come si giocava? Vabbè. Il signor Tajani, che è uno dei protagonisti, che è il vicepresidente, credo, della Commissione Europea, e che è uno dei protagonisti dello scandalo del Lazio, perché una corrente del PDL nel Lazio che ha ingaggiato guerra con un'altra corrente fa capo proprio a Tajani. Intervistato dal TG1, naturalmente l'intervistatore del TG1 nulla chiede sul Lazio. Il TG1 sì, nulla, nulla, non hanno chiesto niente sul Lazio a Tajani. Scusa, il direttore è sempre il signor Maccari, no? Sempre lui, sì, sempre lui. Che ci fu la telefonata con Bossi di Maccari. Beh, poi magari possiamo anche ricordarla, Tajani. Agroalimentare, chimica, moda, aerospazio, per il vicepresidente della Commissione Tajani fare di più proprio partendo dalle eccellenze. Ma la situazione certamente non è facile, ma bisogna fare di tutto, anche grazie a una rete imprenditoriale così consistente per... La rete imprenditoriale, l'agroalimentare nel non so dove. C'è il caso Lazio, signori, il caso Lazio, uno dei protagonisti è Tajani, che non ha detto una parola fino adesso, vabbè. Renzi, se vinco la carriera di D'Alema è finita. Questo francamente mi pare un po' assurdo. Se uno c'ha i voti, caro Renzi, i voti però contano o non contano. Se per te contano, potranno contare anche per D'Alema, no, Renzi? Perché D'Alema deve dire se vince Renzi finisce il centro-sinistra? No, caro presidente D'Alema, se vince Renzi al massimo finisce la tua carriera in Parlamento. Non è che finisce il centro-sinistra, sono due cose diverse, eh? E poi il mitico Razzi in Parlamento oggi, sentite. Quanto alla ripartizione per materie, le aree sono attemperate nella nostra legislazione e sono quelle: A, ambientali, 33 procedure, in cui 29 violazioni del diritto UE. Le aree sono attemperati, ma cosa vuol dire, Razzi? Ma se uno in italiano è carente, lo posso capire, per carità, non è che lei ha fatto l'operaio, è emigrato in Svizzera da giovane, però si può anche fare a meno di intervenire, si fanno delle cose per iscritto. Ma non è che Gli operai parlano così, però perché sono sempre. Ma no, ma gli operai, ho detto che lui ha fatto l'operaio, non ho detto che tutti gli operai parlano tuo così. Solito. Ma solito no, ma non ho detto nulla. Non ho detto alto, alto borghese. No, senti, in questo caso davvero non ho detto nulla. Sto dicendo che se uno dice però che le aree sono. Anche, sono persone molto colte. Che oddio, hanno... non ho fatto una cosa contro gli operai. Sentiamo un altro Razzi, dai. Ciò in virtù delle innovazioni introdotto dal Trattato di Lisbona. Che prevedono in caso di mancanza di recepimento di direttive sanzioni economiche per gli stati membri che non rispettano i termini dell'equamente della normativa nazionale. Ma dai, su, ma di che parliamo? Dai, scusami, Davide, per carità, con tutto il rispetto per le persone che magari hanno un italiano un po' accidentato, eccetera, uno può fare a meno di intervenire. Mandasse delle cose per iscritto, si fa bene il lavoro da parlamentare anche per iscritto, eh? Si fa benissimo. Su, dai. Intanto Fiorito intercettato credo a TGCO 24 proprio pochi istanti prima di essere arrestato. Sentiamolo, Batman, mitico. L'ordinanza, l'ho letta molto velocemente, parla di una ipotetica fuga con mezzi veloci, barche, macchine, cose eccetera, e poi di una diciamo ancora permanenza in un ruolo che potrebbe nuocere ancora a questa fuga, ma diciamo la contestazione, nel senso che il consiglio è sciolto, io non sono più del presidente della commissione del capogruppo, quindi mi sembra una discreta forzatura, però. Siamo qui a 800 24 00 24. Antonio, provincia di Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io ho sentito prima Fiore, ho sentito quell'altro imbecille che parlava, che tirava lo scarico. Io voglio dire che non mi vergogno. Come ha detto, di... scusi? Pronto? Ho sentito prima Roberto Fiore. No, ha detto quell'altro. Chi avvocato? Chi è? Cruciani, la Zanzara, comparenzo, ciao. Ah, eccomi, dimmi. Come stai? Bene, bene, al lavoro. Che è successo? Siamo in diretta, eh? Niente. Che è successo? Come che è successo? Beh, un guaio. T'hanno arrestato il cliente. Che è successo? T'hanno arrestato il cliente stamattina. Maggior lavoro per noi, quindi maggior guadagno. Meglio, dici, no? Come certo, maggior guadagno? Più guai ci sono e meglio è. Siamo al top, noi, eh. Noi campiamo sui guai, non sulle felicità. Dunque, altrui. In parte sei anche... Poi, quando creiamo felicità dopo i guai è ancora meglio. Perché doppio guadagno ancora, no? Doppio guadagno. Ma scusa, ha già pagato qualcosa al signor Fiorito? Ma guarda, queste sono cose che vanno... dette non in queste circostanze. Io sono uno che non lavora gratis. Questo ah, questo c'è. Cioè, bravissimo, ha ragione. Ma certo, ma la parcella sarà molto alta alla fine, no? Se riesci a tirarlo fuori. È quella giusta. Cioè, siamo sui 200.000, insomma, no? Poi se questa volta andasse a chili sarebbe ancora di più. Ah, beh, certo, non c'è dubbio. Scusate, ma dunque, da una parte tu sei contento che è finito in galera, così dopo se esce guadagni un sacco di soldi. Attenzione. Quando la galera non si augura mai a nessuno e non si gioisce però... della galera di nessuno, assolutamente. Nel caso di Fiorito poi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per evitare che succedesse, e quindi c'è stato. Ma l'hai portato dappertutto come una Madonna pellegrina? No, io non ho portato nessuno. Sovraesposizione mediatica? Sì, infatti c'è scritto in ordinanza che una delle ragioni per le quali viene arrestato è perché andando in televisione avrebbe dato messaggi subliminali ai testimoni, ai futuri testimoni. Pazzesco. Quindi state attenti, perché questo significa che d'ora in poi bisogna stare attenti a partecipare a trasmissioni dalla Zanzara porta a porta. Perché no, scusami, avvocato, scusami, Carlo, ma in pratica ti attribuiscono la responsabilità di averlo portato in giro, la colpa è tua, dicono i magistrati. No, ma mica ce l'ho portato io in giro. E chi l'ha portato, scusa? Da solo, guarda, è stato una fatica adesso poterlo fermare, e l'abbiamo fermato lunedì scorso, lo abbiamo fermato proprio perché lui aveva questo impeto di volontà di giustificare, di spiegare rispetto agli attacchi che gli facevano, soprattutto perché si riteneva coinvolto in un sistema nel quale nessuno può essere. Ma pure tu, scusami Carlo, però pure tu oggi hai detto, dovrebbero andare dentro anche tutti gli altri 70 consiglieri. Lo confermo, o tutti o nessuno. Non è che tutti hanno la stessa responsabilità di Fiorito, dai. Tutti hanno preso gli stessi soldi di Fiorito, nessuno ho capito, ma nessuno pare che abbia trasferito 1.300.000 euro, eccetera, eccetera. Questo, ma no, non è problema di trasferimento. Lì il problema è della provenienza delle somme. Le somme che all'origine non dovevano essere date a nessuno, chi l'ha presa ha consumato comportamenti. Ho capito. Poi non so se illeciti. Ma tu in carcere ci vai a trovarlo o no? Certo, domattina ci vado. Certo. Ah, domani mattina. Ma tu di solito non vai mai in carcere? Lo so, vabbè, ma quando dobbiamo fare gli interrogatori ci devo andare per No, forza. Dico, non vai a visitare di solito i tuoi clienti in carcere. No, io non ci vai mai, non ci vai mai. Ci vado quando è necessario. E che schifo il carcere, ad un certo punto. No, non è uno schifo, è un luogo di tristezza. Immane, quindi, è meglio non andarci. Di tristezza non ne voglio vivere. Allora, torniamo con l'avvocato Tormina tra qualche minuto, la richiamiamo, avvocato. Quando è che vai a Porta a Porta? Pure Porta a Porta, Porta Sfiga, Porta a Porta. Sì, sì, ma chi? A voi? A me no. A me no, certo, vado sempre. Ospite, appunto, quindi. Scusa, avvocato, però Porta Sfiga, nel senso, dopo Porta a Porta hanno arrestato. Vabbè, no, ci sono state no, altre. Beh, no, ci sono state tante trasmissioni, sì. Apparizioni, forse Tenese gli ha portato iela, non so. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un passo. Eccoci qui, 800 24 00 24, caro David, è ancora con noi l'avvocato Carlo Taormina, che stasera andrà a Porta a Porta, è vero, avvocato? Sì, vado a Porta a Porta. E che succede? Io ho una domanda per il professore. Che ne so, tutto può succedere. Ma di che parlano a Porta a Porta stasera? Solo ma di questo... non lo so, ma credo a proposito, credo che sia la vicenda Fiorito, da quello che mi è passato. Ma Fiorito ha detto meglio in galera che col PDL. Beh, è una bella frase quella, specialmente con riferimento a qualche personaggio che sta là in mezzo, credo che abbia ragione. Ha ragione addirittura, gliel'hai suggerita tu, Carlo, di la verità. No, io guardate, qui con la storia dei suggerimenti è meglio che finisce, perché domani questo commette un reato, dicono pure che gliel'ho fatto commettere io, per cui insomma lasciamo perdere. Ma piuttosto, mi sto ricordando che Fiorito è stato ospite anche della Zanzara. E come no? E certo. E lì ha preso la fregatura. E lì perché ha preso dici? La fregatura. Gli ha portato sfiga alla Zanzara? Dici. Altro che porta iella qualcun altro, siete voi che portate ma iella. Ma no, ma quando mai? È stato anche a Quinta Colonna, dove ha fatto l'ira di Dio. Ma è stato a Quinta Colonna anche ieri sera, ha litigato con Barbato. Là, l'hai visto? Sì, beh, vabbè, ma insomma, mi sembrava veramente uno scenario. Barbato che diceva ladro, magna. E quello dice, quell'altro dice, tu sei indagato, anche tu sei indagato, quindi insomma è stata veramente la scenetta di quello. Dal PDL lo hanno scaricato tutti, avvocato, diciamo la verità. Cioè. Ma poi bisogna vedere che succede, perché sai, quando uno è scaricato poi scarica. Avete carte? Avete carte? Ma io non lo so se c'ha le carte, dico però che quando uno è scaricato, chi scarica deve molto... deve riflettere bene su quello che fa, perché certamente Fiorito non è un personaggio qualsiasi, non è un personaggio indifferente. Potrebbe cantare, no? Potrebbe cantare in carcere. Guarda, i cantanti con me non cantano. Quello che potrebbe, credo che abbia consapevolezze a non finire, per cui insomma. Dice chi ha scaricato deve stare attento. Sì, esatto, sì. Deve stare attento. Io voglio capire, però, molto attento, deve stare molto attento. Questo è un messaggio un po' mafioso. Una mezza minaccia, avvocato, su. Una mezza minaccia. Insomma, manca la persona, manca il soggetto al quale è destinata. Il PDL, chi è? Gente del PDL. Gente del PDL, ma valla a trovare la gente del PDL. Ma com'è che lo si fa uscire? Com'è che lo si fa uscire dal carcere adesso? O gli fa bene un po' di carcere, gli è stata contestata un'ipotesi di peculato che non esiste. Vabbè, questo va bene, ma come lo si fa uscire? Ti pare niente. Uno Stato che mette in galera una persona sbaglia contestazione. Oppure, quello lo vedremo. Certo, lo vedremo, ma è assolutamente così. Per 20 anni la giurisprudenza ha detto sempre la stessa cosa, quelli sono soldi privati e quindi sono oggetto di appropriazione e non di peculato. Ma perché l'hanno arrestato alla fine? Perché l'hanno arrestato? Ma io penso che insomma in questo ira di Dio che è successo, che ha scatenato la sua vicenda, smottamenti da parte di molte regioni del paese, avevano paura, altre regioni smontate. No, bisognava dare una risposta all'opinione pubblica mediatica, no? Mediatica, una risposta indignata. Scusi, professore, l'opinione pubblica è indignata, cioè i magistrati hanno voluto dare una dimostrazione all'opinione pubblica, abbiamo arrestato Fiorito come il capro espiatorio. Beh, scusate, no? Quando io vi dico che tecnicamente, dal punto di vista della configurazione quello del reato, non era possibile arrestare, credo che più di questo non si possa fare. Vedremo poi chi ha ragione, non ti preoccupare. Che dici, Parenzo? Che dici? No, io volevo salutare l'ottimo amico, il professor Carlo Tormia, sono da tanti anni, ma volevo chiedergli semplicemente questo tecnicamente. Ha paura per la vita di Fiorito in carcere, cioè insomma, no, un uomo nel modo più assoluto. Alla scorza, magari... alla scorza dura l'uomo, no? Vi dico soltanto una cosa, riflettete, ecco, sì, che Belsito che ha fatto la stessa cosa, sì, il partito non è stato mai arrestato, pubblici, mai arrestato. Provenienti da finanziamenti luci, non soltanto non è stato mai arrestato, ma non gli è mai stato contestato il peculato, ma gli è stato contestato l'appropriazione indebita. Vabbè, e allora, quello... perché due pesi e due misure? Ho capito, ma il Jeep Wrangler durante i 3 giorni di neve a Roma, che se l'è comprato a fare con i soldi pubblici, se è vero o è falso? Ma lui ha comprato il Jeep, l'ha comprato il gruppo del quale era presidente. La Jeep, nei giorni di neve, avvocato Taormina, la sì, Jeep. Stiamo discutendo. Ma insomma, un mezzo bandito, Fiorito, o no? No, non dite questo. No, ma se è bandito lui, sono banditi anche gli altri, capito? Questo è il problema. Finché io non ho risposta su questo punto, primo, che chi faceva scendere i soldi a pioggia sta lì e che ha commesso veramente peculato, sta lì che non è attaccato dall'autorità giudiziaria, l'ingiustizia è anche quella di perseguire alcuni e non gli altri, anche quella è l'ingiustizia, e anche contro questa si combatte. Hai capito, Parenzo? E come no? Combatte come un leone, combatte come un leone. No, ho capito che... Secondo me nel merito ha fatto transitare un sacco di soldi, ma pure all'ex fidanzata, la fidanzata lì, come si chiama? Samantha Reale. Ma lavorava, ha fatto dei lavori per la... Ma che lavorava? Ma di che stiamo a parlare? Su, ma c'era anche la sorella della Meloni, c'erano altri parenti. Ancora? Ma non c'è altri... quella è assunta. Come? Quella è assunta con un contratto a tempo determinato. Il contratto si è rinnovato, lo ha rinnovato questo gruppo consigliare presieduto da Fiorito, quindi questo e tanti altri parenti e via dicendo che sono ho capito, ma questa ex fidanzata dice contratti. Anche che è stata trattata male da Fiorito, che l'ha sputtanata, che l'ha rovinata. Sì, l'ex fidanzata ieri sera noi avevamo trovato un SMS da cui risultava che qualche giorno fa ha chiesto a Fiorito i soldi per cambiare le gomme della macchina perché le sue erano lisce e rischiava di poter avere qualche incidente. Quindi insomma sta signora, poi bisogna un attimo vedere quali sono, cioè ancora chiedeva soldi, giustamente qualcuno ha detto ieri sera in trasmissione, ma lei dove stava in questi anni che non vedeva quello che accadeva, a parte il fatto che Fiorito è un uomo che ha notevoli possibilità economiche di famiglia, quindi poteva anche certamente... Quattro bonifici come? Gli ha dato per prestazioni sul territorio, 5.000 euro. Ma quali prestazioni? Su, dai. Infatti, è giusto questo. Bisogna andare a vedere che se prestazioni ci sono state o non ci sono state. Per tutti e 71, non soltanto per Fiorito. Hai capito, Parenzo? No, nel merito, secondo me, la strategia del professore non è sbagliata. Beh, intanto l'ha portata in galera sta strategia, avvocato. No, mica per colpa tua è finita in galera. Dai, non state a dire stronzate, dai. Ma scusi, professore, lei viene pure da insuccessi clamorosi, adesso non la voglio attaccare, però bisogna dirle alcune cose. Da Ariano Flaminio, là, con sta storia degli stupri, eccetera. Poi adesso questo che finisce in galera... Infatti ancora non esce la sentenza che doveva essere depositata un mese fa, un mese ma e ma questo fa, è andato a finire in galera, questo qua, il suo assistito è finito in galera. Tre mesi di proroga. È finito, se stava zitto forse non finiva in galera. Avvocato? Eccoci qui, Antonella da Roma, buonasera. Vada Antonella, buonasera. La zanzara con l'avvocato Carlo Taormina combatte come un leone, Parenzo, come un leone. Ho sentito, ma e allora devono andare in galera pure gli altri devono andare in galera. Ma la tua tesi non è così sbagliata quando ma infatti anche secondo me non è sbagliata la tesi. La tesi per cui anche gli altri, secondo me, hanno voluto prendere, in questo ha ragione Taormina, hanno voluto prendere uno per dare un esempio all'opinione pubblica e sbatterlo in galera, al di là delle questioni poi del fatto della fuga, l'inquinamento delle prove, eccetera. Invece nel merito, come sai, il GIP dice pericolo di fuga, inquinamento delle prove, quello bisogna vedere. vedere. Ma tante volte è stato dimostrato che gli arresti poi non dovevano essere fatti, per cui non si possa quelle cose lì poi vedere. Il 50% dei casi. E quelle cose lì poi vedere. Ha ragione Taormina. Che hanno voluto dare un segnale, non c'è dubbio. Hanno voluto dare un segnale all'opinione pubblica. Io su questo sono d'accordo al 100%, però avvocato, alla fine ce l'ha fatto andare lei in galera. Allora insistete, allora pure voi fate andare in galera la gente facendo pressione mediatica come spesso fate. No, dico, un avvocato, la prima cosa che dovrebbe fare è quello di evitare il carcere al proprio assistito. No. È una sconfitta anche per lei, o no? No, assolutamente. Ma quale sconfitta? Non insista su questo tasto perché è completamente. Ma io faccio un po' l'avvocato del diavolo, la voglio anche pungolare. Ci faccio avvocato vero. Io faccio. Scusi un attimo, gli farà bene un po' di carcere? No, il carcere non fa bene a nessuno. Magari per dimagrire, avvocato. Ma stava già dimagrendo abbastanza, devo dire, in questi giorni. Sì. Perché era preoccupato. Ma era spaventato. Era spaventato ad andare in carcere. Questi giorni. Beh, no, guardi, questo è un vecchio militante del Movimento Sociale Italiano, per cui è abituato a grandi battaglie. E stamattina ha dimostrato la sua forza, la Jeep Wrangler. Io divento pazzo. La Jeep Wrangler 35.000 euro il 13 febbraio del 2012. Si vedrà. Ma perché l'ha comprata a fare? Lei che lo sa, perché lo sa, che l'ha comprata a fare? Guardi, io sapevo manco che aveva comprato la Jeep, per cui e quando gli ha detto, scusi? No, noi abbiamo fatto riferimento solo a alcune macchine che sono state comprate dal gruppo e che poi sono state regolarmente restituite praticamente, quindi. Ma oggi che è successo a Canale 5 con la madre di Fiorito che ha attaccato Barbara D'Urso? Una cosa pazzesca è successo. Non lo so. Ma vogliamo chiamare la madre? Lei la conosce la madre? No, non la conosco. Mai conosciuta, la famiglia, no. La famiglia Fiorito non l'ha mai conosciuta, da Ragni. No, io non, ma nemmeno lui conoscevo, Ma come no? Gli ha fatto la cosa sulla banconota, 100 Fioriti, là, da principe di Filettino. È stato l'ideatore del Filettino che ha messo, che era il suo, diciamo, manager elettorale, quindi questa cosa io non l'ho mai conosciuta. Avvocato, chiamiamo la madre di Fiorito, va. Ma vediamo. Fate come volete, che ne so. No, vabbè. Un attimo solo. Vabbè. Aspetti, resti lì, mica sta andando a porta a porta già, no? Sta andando a porta a porta, avvocato? Sì, sto andando, sì. Aspetti un attimo. Ma chi ci sarà? Ecco, ci un sarà attimo solo. Te? Aspetti. Pronto? Signora Anna? Sì. Buonasera, chiamo da Radio 24 e con noi anche l'avvocato Taormina. Volevamo sapere cosa era successo questa sera a Canale 5. Dunque, la ringrazio di avermi chiamato. Se c'è il professor Taormina sono contenta perché lui, c'ho molto fiducia in lui. Dunque, stavano facendo. Eccola, aspetti che le faccio parlare con l'avvocato. Avvocato? Avvocato. Saluti. Buonasera signora. Avvocato. Racconti all'avvocato. Auguriamoci di. E come l'ha saputo lei tramite, diciamo, io ho detto adesso andrò su blog, andrò su tutto. Beh, perché un po' sta circolando la notizia. Sta circolando, infatti, però. Racconti all'avvocato che non sa niente quello che è successo. Allora l'avvocato glielo spiego io. Sì. Dunque, la trasmissione era iniziata da tempo. Io purtroppo mi sono ripromessa in questo tempo di non vedere tanto le trasmissioni perché essendo vedova, invalida e sofferente e cerco di evitare di soffrire. Però mi chiama mia sorella dicendo accendi Canale 5 che c'è Barbara D'Urso che sta facendo delle ironie sul grasso e sulle cose di Franco. Accendo. Che diceva che era grasso, che era ciccione. No, c'ha tante sfaccettature, eppure così grasso, ma un sarcasmo. Una voglia, come se fosse stato una marionetta, capito? Sì, proprio a portarlo in giro per la sua presenza, per sua cosa. Poi c'era del debbio insieme. Sì. E quello, e ribadiva, quando c'è la povera gente che non ha una lira, tutte quelle cose così. Sì. E loro ridevano proprio sulle spalle, quando davanti c'era mio figlio indagato. Ma non lo potete vedere su internet la trasmissione? Sì, ma dopo la vedremo, no? Se ce la racconta lei è meglio. Sì, perché io ero un po' confusa, adesso non posso darle tanti particolari. Allora telefono alla segretaria di Franco, Mietta, non so come si chiama, e lei mi dice, signora, guardi che io sto soffrendo da morire per questa trasmissione, ho trovato un numero per dire in diretta che stanno facendo delle ma resine. In sostanza lo stavano prendendo in giro per sì, in una maniera proprio ironica, sotto il sorrisetto, proprio di quel sorrisetto, proprio come se fosse stato un clown delinquente. Sì, ma lei secondo la D'Urso come si comportava? Come la D'Urso rideva, poi lei quando sta davanti a Del Debbio, un bell'uomo, la D'Urso sa, è sempre molto affascinante, perché mi dispiace, ma queste sono cose mie, spero che non vadano sul giornale. No, non si preoccupa. Quando c'è un bell'uomo, Del Debbio poi affascinante, così, e loro rideva, quegli sguardi proprio d'intesa nel senso negativo. Cioè, le piacciono gli uomini proprio alla grande? No? A me me lo dice, infatti, guardi, io ho poco rispetto, comunque. Ma perché, le piacciono gli uomini molto, secondo lei? Ma io sto parlando con... No, con... cioè, io sono Giuseppe Cruciani dalla Zanzara, l'avvocato è con noi, avvocato? Ecco, no, non vorrei parlare con un giornalista, perché io queste cose le voglio dire solo all'avvocato. No, è l'avvocato lo sta dicendo, le sta dicendo l'avvocato, sì, ma è anche... No, con... io voglio l'avvocato, non sì, è l'avvocato. Che mi è stata a prendere in giro pure voi. No, no, che sta a prendere in giro, l'abbiamo chiamata Radio 24. Siamo... Radio 24, ma mi scusi, è ospite anche l'avvocato, è qua l'avvocato, avvocato Tommino. Sì, io... sono qui, signora, sono qui, ma insomma, questa è una cosa un po'... Sì, signora, sono cose un po' delicate, bene... Ebbene, ma non è professore lei, a me guarda queste cose non le sopporto. No, ma è il professor Taormina, le assicuro, è il professor Taormina, professore... signora. Sì, sono io, signora, sì, sono io, sono il professor Taormina. Le voglio dire però di queste cose è bene parlare riservatamente, senza metterle in piazza, è bene essere cauti. No, ma signora, signor... no, ma c'entra ognuno, insomma, tutte le occasioni per poter manifestare i propri... No, ma è successa una cosa, professore, è successa una cosa particolare, non è che è successo un segreto di Stato, c'è una trasmissione seguita da milioni di persone in cui ridevano e scherzavano su Franco Fiorito, giusto, signora? Lo ironizzavano, ma lei che cosa ha detto quando è intervenuta in diretta? Scusi, tanto poi ripeschiamo quello che ha detto. Che cosa, senta, che... però io voglio il permesso di Taormina per parlare, perché Taormina mi ha detto che non devo parlare. Avvocato, me li dica che può raccontare quello che ha detto in diretta, non è che deve dire niente di più, deve raccontare. Io voglio il permesso dell'avvocato. Non so nemmeno quello che è successo in diretta. Ma no, ma Ha detto qualcosa alla D'Urso sul modo di condurre la trasmissione, gli dia il permesso di parlare, sennò è un disastro qui. No, ma io non posso dare permesso su quello che non so di cui vuole Professor Taormina, signora, avvocato? Io non conosco il contenuto, non conosco il contenuto, avvocato? Per cui non le posso dire. Sì, la sento, avvocato, pronto? Guardi, io già mi sento in colpa per aver parlato, ora non vorrei parlare con i giornalisti, quindi smetto qui la cosa. E non voglio mettermi in mostra. No, ma signora, io voglio dire una cosa. La cosa che voglio capire, la D'Urso che operazione ha fatto lì? Come si vede la trasmissione e poi giudichi lei. Ho capito, ma me lo dica io lei. Io non voglio stare in mezzo a nessun guaio. Io credevo di parlare col professor Taormina. Ma no, io l'ho passato. Non ho mai avuto modo di parlarle personalmente, però ho riconosciuto la voce che non era la sua. Se Taormina mi dà il permesso di parlare, perché io ho parlato purtroppo e me ne sono pentita, ora non voglio più parlare con altri giornalisti. No, d'accordo. No, mi dispiace. Guarda, non interessa. Professore, li dia... sbaglio anche a parlare con lei. Professore, la ringrazio e buonasera. Professore, li dia il permesso di parlare, non succede no, nulla. Ma no, professore, non me lo può dare il permesso, perché non voglio parlare io, non voglio distruggere ancora di più mio figlio. Ma non deve distruggere nessuno. Io non so. Ho preso le difese come madre e adesso me ne pento di averlo fatto pubblicamente e adesso... No, lei si deve difendere. No, non voglio mettere in mezzo sempre nessuno, tu, sì. Quindi meno ci esponiamo e meglio è. Sì. Ho sbagliato perché ero disperata e me ne prendo le responsabilità, ma altro non voglio dire. No, ma ho capito, ma come ha vissuto buonasera, questa... Buonasera, guardi, non mi disturbi ancora, ma perché sono tanto avvilita. No, per carità, ma assolutamente. Arrivederci. Va bene, buonasera. Vabbè, avvocato, lei pure non mi ha dato una mano, però mi doveva dare una mano a un certo punto. Ma io non so di che si tratta. Ma è una cosa televisiva, ma che gli frega, è una cosa televisiva. Guardi, questo è un momento di dolore. No, ma non c'è dubbio, perché noi però facciamo il mestiere nostro, non è che facciamo... Sì, vabbè, ma il mestiere vostro comprende anche implica anche la comprensione. Ma sì, ma non è che siamo qui a pettinare bambole noi. No, non pettinare bambole, ma questa è una situazione molto delicata. Infatti non è che volevo fare, ma non volevo fare nulla di strano, volevo farmi raccontare quello che era successo, non volevo... Ormai è fatta. Vabbè, avvocato. Va bene, d'accordo. Ci sentiamo, a presto. Un vespone e una zanzara svolazzando fanno a gara per vedere chi mi pizzica. tocca al Feder. La zanzara fa la vaga, s'avvicina fischiettando. Siamo qui, caro Parenzo. Caro Parenzo, a me dispiace naturalmente disturbare la signora Fiorito a casa, però d'altra parte è stata lei che si è esposta con questa telefonata a Canale 5 oggi pomeriggio e anche precedentemente in un'intervista al Corriere della Sera in cui aveva detto delle cose sul figlio all'inizio di questa vicenda. Certo, oggi c'è l'arresto, è una cosa diversa, però insomma è stata la signora a dire mio figlio è molto intelligente perché leggeva Topolino a 3 anni e altre cose ancora. Per carità, poi bisogna rispettare tutti. Infatti a un certo punto, quando ho visto la situazione un po' precipitare senza il contributo fattivo dell'avvocato Taormina, a quel punto insomma ho mollato la presa. Ho fatto bene? Ha mollato anche bene, lei, bisogna dire. Hai fatto bene, dopodiché mi dispiace per la signora che sta veramente vivendo un dolore enorme. Certo, il figlio e tutto. Sì, questo deve essere momenti molto molto difficili per lei. Dopodiché è lei che ha telefonato in diretta dalla signora D'Urso, cioè questo rimane. Ma sì, ma poi voglio dire, magari si sono messi a ridere sulla questione del grasso, anche noi abbiamo preso in giro un po' Fiorito perché è un po' grasso. Io capisco il dolore della signora. Cioè capisco il dolore della signora, mi dice che è una madre che vede il figlio in galera, si trova al centro di un'attenzione e mediatica. Chiama in diretta e insulta o comunque prende a male parola D'Urso. Magari proviamo a chiamarla fra un po', oppure no, non lo so, vediamo. Sì, lei conviene di più forse. Gianfranco dalla provincia di Modena. Poi tua amica la D'Urso, no? No, non è mia amica. Gianfranco dalla provincia di Modena, lo rivendicherei, ma non sono suo amico, ma non ho problemi, non avrei problemi a dirlo se lo fossi. Gianfranco, provincia di Modena. Posso parlare? Sì, prego. Buonasera. Stamattina stavo ascoltando la trasmissione del suo collega Milan. Sì. Quando ho avuto la bella notizia, insomma, dell'arresto del signor Fiorito. Sì. Che possiamo chiamare. Cioè lei signore. È contento dell'arresto di Fiorito? Anzi, inviterei tutti gli italiani a mettere una bandiera. Ma lei è una specie di animale, un cane, insomma. No. Sì, il cane sì. Sarà lei se io sto parlando educatamente, ma lei come al solito è molto... No, ma se lei è contento per l'arresto di una persona, è un animale, in questo volevo dire. Penso che la sua sfrontatezza ha superato i limiti. Ma ho capito, perché allora, lei deve essere contento perché arrestano qualcuno? No, me lo spiega. Io non sono contento. Perché, cioè, a meno che non arrestino il mostro di Marcinello, oppure che un assassino patentato, eccetera. E le sue responsabilità devono essere ancora accertate. Magari saranno. No, scusi, adesso le lascio parlare. Non si preoccupi, Gianfranco. Abbiamo tutto il tempo. Ma la lascio parlare. Non si preoccupi. Ma lei già sta facendo già un comizio. Ma io vi faccio ogni sera i comizi. Non ho bisogno della sua autorizzazione. Non si preoccupi. Se no lei interrompe sempre. Poi se uno. Già, io ho chiamato per la prima volta una trasmissione. Vabbè, allora mi dica. Allora, io stavo dicendo che forse il primo passo è verso un piccolo picciolo di democrazia che noi abbiamo in Italia. Noi siamo arrivati al punto che, io ascolto quasi tutti i giorni Radio 24, che un consigliere, parliamo da un'altra cosa, che a un chilometro di distanza prende 4.800 euro. Sì. Io sto ancora lavorando adesso. No, ma lei ha ragione a essere incazzato nero per questa cosa. L'ho detto anche io ieri. Allora, domanda alla sfrontatezza del signor Fiorito, che va davanti alle trasmissioni come se niente fosse, quando poi, sì, adesso vedremo se si appurerà, ma io penso già che tutti quei soldi là che si sta parlando verranno fuori poi. Sì. Vabbè, lei dà per scontato che lui si è intascato soldi? Io penso di sì. E vabbè, lei lo dà per scontato. Guardi che io non ho nessuna considerazione positiva di Fiorito e soprattutto di chi ha aumentato a dismisura i soldi a disposizione dei consigli regionali. Il punto non è questo, caro Gianfranco, però non sono contento quando uno, a meno che non sia, ripeto, un assassino matricolato, un delinquente, uno va in galera senza la condanna definitiva. Sto lavorando dalla mattina. Ma lei ha ragione a essere incazzato, ma è la galera. Che questo qua, con i nostri soldi, si ruba e dà a tutti il suo comparto, gli amici, soldini che sono nostri. Allora qua ci dovremmo dare una sveglia a tutti quanti, perché non sono soltanto io incazzato, però dovremmo essere incazzati tutti e dire tutti quanti siamo incazzati. Ha capito? Sì, Gianfranco, lei mi ricorda un predicatore di un film, eccetera, un protagonista di una trasmissione, eccetera, che fra poco la metto. Tutti gli italiani che sentono a mettere la bandiera tricolore sui balconi. Per l'arresto di Fiorito. Cominciamo. Per l'arresto di Fiorito. Però questo però conferma, caro Parenzo, quello che diceva prima l'avvocato Dormina, eh? Cioè che in realtà i magistrati forse hanno voluto dare, al di là delle questioni giuridiche, tecniche, eccetera, no, hanno voluto dare un segno. Noi con l'avvocato spesso scherziamo, è una cosa gravissima quello che... Ma nel merito però ha ragione, e se lei si può sbattere in galera uno perché va in televisione, cioè i tre motivi per cui uno viene sbattuto in galera sono pericolo di fuga, inquinamento delle prove... No, ma quello l'hanno scritto, che c'entra? Però hanno messo anche l'alta esposizione mediatica. Bisogna leggere le cose, non è che si può fare soltanto chi tutto il giorno. Ma perché tu l'hai letto? Ho letto l'ordinanza. Ma che hai letto? Oggi pomeriggio ho fatto un cazzo, l'unica roba che ho fatto è leggere l'ordinanza. Nell'ordinanza c'è scritto che lui va in i suoi passaggi mediatici rischiano di inquinare le prove. Allora la cosa è veramente assurda, perché un imputato, sì, anzi una persona indagata, non imputato, un indagato ha il diritto di difendersi in ogni luogo, anche in televisione, certo, primus in tribunale. Bravo, in tribunale e in ogni luogo, cioè ha diritto di difendersi, specie se è un caso mediatico come questo. Bravo. Uno dirà, un povero Cristo non può andare in televisione. E invece Gianfranco è incazzato nero. Gianfranco è incazzato e lo si può capire. L'ascoltatore sta dicendo una sciocchezza. Per questo io dico, domani mattina alle 8:30 davanti a Regina Celi, ma con chi? Marco Pannella, Staderini, Ricky Tognazzi. Ma tutti noi chi? Davanti dell'occhio domani Sì Radicale con Staderini, Marco Pannella. Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Io forse ci sarò se mi sveglio, aperta parentesi, chiusa parentesi, ma se no ci va, non so, ma non c'è nessun sit-in, non c'è nessun sit-in domani alle 8:30. Vabbè, ma tu fai militanza radicale, qui non ce ne può fregare di meno. Non è militanza radicale, è un'informazione per... Vabbè, il signore Gianfranco non me ne frega niente dell'amnistia, a me l'amnistia non me ne frega niente, anzi fare l'amnistia è una cosa sbagliata, che tanto il problema si ripropone tra 3 mesi, 6 mesi. Ma che amnistia subito, queste cose radicali ridicole. Gianfranco dalla provincia di Modena sembra il signore di Quinto Potere, ve lo ricordate? Sentiamo. Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante. Oh, resta su di lui. Seguitelo con la telecamera. Apritele, mettete fuori la testa e urlate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Un vespone, una zanzara, svolazzando. Beh, Gianfranco, si riconosce un po' in questo signore, eh? No, sai cos'è? Ho visto il film e un pochino non ci riconosco. Però voglio dire, a me non mi ha dato fastidio il fatto che lui è andato in televisione. E la sfrontatezza, come tutti i politici adesso, sì, si comportano, cioè che hanno una sfrontatezza davanti a tutte le cose. Ho capito, ho capito Gianfranco, molto chiaro. Andiamo a Torino, Alice, grazie Gianfranco, Alice. Alleluia, buonasera. Buonasera. Io sono Alice e sono un igienista dentale. Pure. No, perché, certo, pure, esattamente. Chiamo perché prima ce l'avete col fatto che la Minetti per una santa volta, sì, ha fatto quello che... diciamo dovrebbe essere andata lì a fare, perché quando è stata eletta un igienista dentale, tutte noi, che eravamo sconosciute prima, forse era meglio. Cioè lei è stata contenta in quanto igienista mentale, che è mentale, ogni volta dico igienista mentale, non so perché. Non mentale. Sì, ma lo so. Ero contenta perché, le spiego, mi dia 2 minuti, lo so che l'hanno. Perché hanno glorificato, perché hanno portato su un piedistallo le igieniste dentali? No. E perché cosa, scusi? Perché secondo lei è diventata consigliere regionale perché è igienista dentale, ma di che stiamo a parlare? Allora, Cruciani, mi lasci finire. Eravamo la categoria, diceva, forse in questo modo riusciremo ad ottenere qualcosa a livello proprio di categoria, come la nostra presenza nel servizio pubblico, visto che fanno le università, dovremmo avere anche posti nei servizi, Alice, pubblici e cose simili. Invece, purtroppo, poi io non sapevo chi fosse, l'ho scoperto sui giornali chi era, poi. Ecco. Perciò. Però questa volta, io sto solo dicendo questo, per una volta che è andata in regione a parlare del latte materno. A parlare del latte materno, che è argomento che riguarda la nostra categoria, perché è molto importante l'alimentazione con latte materno, perché ci possono essere dei danni a livello... Sì, ma ormai è tutto finito, capito? Qualsiasi cosa dica, io lo dico con tutto... Ma lei ha ragione, cioè, qualsiasi cosa dica. Una santa volta, che ha fatto l'unica cosa che doveva fare un igienista dentale in regione, e tutto quanto, mi dite che dice stronzate. Ma non dice stronzate, io non ho detto che dice stronzate, ho detto che... No, ha detto che sono cazzate. Ma no, ma non è che non so spiegare che non ho detto questo. L'odontoiatria pubblica, l'assistenza, l'allattamento sono cose fondamentali. Sì, ma certo che sono fondamentali, solo che un consiglio, di alcune cose, è meglio che se ne occupino altre persone. Ma così, ma per una questo, per un, ma e guardi, basta, dico solo questo. Io ho smesso, ho tolto. Ma non è che uno dopo 8 mesi, io, si ripresenta al consiglio regionale e parla del latte materno, perché non è credibile, no? Allora scusa, Alice. Io ho dismesso l'iscrizione all'associazione a cui lei è iscritta perché non è stata cacciata dall'associazione. Quindi, guardi, e che associazione è? Scusi, che non associazione non è? Si dice. Ma come non si dice? Ma è mica il mistero di Fatima, scusi, Alice. È il mistero di Fatima, poi domani invece finisco crocifissa. Cioè, che associazione è, scusi? Però noi igienisti dentali, siccome non abbiamo l'ordine come hanno i medici, avete delle associazioni? Le associazioni di categoria, no? Lei e ce n'è più di una, sì. E ci si iscrive per cercare di essere aggiornati, fare i corsi di aggiornamento, che la Minetti è ancora iscritta, corsi di lavoro. La Minetti è ancora iscritta a questa associazione? Credo di sì, comunque io avevo fatto una richiesta via mail di un intervento perché venisse tolta, sì. Poi c'è stato un intervento, un congresso l'anno scorso a Torino dove è uscito fuori l'argomento ed è stato detto che non c'entra niente quello che fa la Minetti con la categoria e tutto, allora io ho lasciato la categoria, quindi non sono per niente, non la vedo come la mia rappresentante, le dico solo che inizialmente si poteva sperare, no? Eccoci, eccoci qui, Carlo, provincia di Bari, buonasera. Scusa un secondo. Che c'è, Davide, che c'è? Che c'è? No, chiedi a un'ascoltatrice, magari donna, perché sto facendo una pasta alla norma. Ora, la domanda è questa, Qual è la domanda? Si friggono prima, io sto facendo le melanzane, ma mentre uno frigge le melanzane, a parte, prepara il soffritto per il sugo, giusto? Ma guarda, non chiedere a me queste cose perché non ho la minima idea. Perché comunque tu non cucini. Comunque mi dicono di sì, dalla regia, Valeria Bernardi mi dice di sì. Ah, dicono di sì dalla regia. Sì, puoi andare tranquillo. Però, care signore che siete all'ascolto, se volete dare consigli a Parenzo su come cucinare la pasta alla norma, potete anche farlo in diretta, intervenendo all'800 24 00 24. Adesso non ci rompere le scatole con queste minchiate. Carlo dalla provincia di Bari. Buonasera. Vada. Grazie tanto comunque. Carlo, allora. Grazie anche a qui. Posso? Sì, e se lei però non va. No, no, io volevo dire, rispondere soltanto a quel pseudo signore che si chiama buon compagno come cazzo. Che fa? Buon compagno, sì, buon compagno. Ha detto delle stronzate, mi dispiace. Qualcosa sui berlusconiani, tutti imbecilli, ignoranti, eccetera, l'altro giorno. A lui gli diamo la patente di presidente degli ignoranti. Perché lui è soltanto un povero. Un attimo solo, Parenzo, la D'Urso, vediamo. Ah, Barbara D'Urso, tua amica. Ma oddio, ancora insisti. Pronto? Barbara? Chi è? Siamo dalla Zanzara, ciao. Ciao. Ti disturbiamo? In questo momento sto incasinata, ciao. No, Barbarella. Barbara? Ciao. Barbara, ti vogliamo chiedere di questa cosa con la madre di Fiorito? Che è successo? A noi ci ha detto che era distrutta per quello che vedeva, ma è vero o no che ridevate sul fatto che Fiorito era grasso? È grasso. Ha detto la madre di Fiorito che voi ridavate perché era grasso e lei si è arrabbiata e ha chiamato. È vera questa ricostruzione o è falsa? No, io credo di aver capito che lei si è arrabbiata, diceva che io e Del Debbio avevamo sorriso sul fatto che suo figlio era stato arrestato e ha detto appunto che suo figlio è un uomo puro, onesto, che ha vissuto di tanti sacrifici, insomma, poi quello che ha detto l'avete sentito. No, tutti. Sì, d'accordo. Io sono in diretta con voi, giusto per sapere. No, certo che sei in diretta. Noi siamo... fantastico, bene. Vabbè, ma non c'è niente di strano. No, niente, saperlo. Uno dice, salve, ciao, sei in diretta con noi. Sì, sì, no. Allora, no, ma la questione è semplice. Siccome noi prima l'abbiamo chiamata e lei ci ha detto, mi hanno chiamato a un certo punto, mentre io stavo lì perché non stavo vedendo, e ha detto, guarda la trasmissione con Barbara D'Urso su Canale 5. E lei si è collegata e ha detto, ridevano sul fatto che mio figlio è grasso. Poi si sono messi a ridere e a sbeffeggiarlo per una serie di cose. Adesso te la faccio sentire cosa ha detto, vediamo un po' se è vero, perché poi sei una madre in questo momento col figlio in carcere, magari può anche pensare delle cose un po' strane. Sentiamo. Ho trovato un numero per dire in diretta che stanno facendo delle ma resie. In sostanza lo stavano prendendo in giro in una maniera proprio ironica, sotto il sorrisetto, proprio di quel sorrisetto, proprio come se fosse stato un clown delinquente. Sì, ma lei secondo la D'Urso come si comportava? Come la D'Urso rideva, poi lei quando sta davanti a Del Debbio, un bell'uomo, la D'Urso sa, è sempre molto affascinante perché Vabbè, lasciamo perdere questo passaggio. ma... No, aspetta, mi fa ridere questa cosa, perché se c'è del debito io divento affascinante, neanche affascinata. Cioè vabbè, voleva dire affascinato, vabbè. Dai. Adesso è una signora un po' colpita. Però voglio dire una cosa. Mi fa ridere che io cambi atteggiamento perché sono affascinato dal debito. Ma perché lei ha detto... Era un mostro e non ero affascinato. Ma perché in diretta che cosa ha detto? Pure che sei una che gli piacciono gli uomini, una cosa di questo tipo, no? Ha detto in diretta, là, o sbaglio? Adesso non ho ancora sentito bene perché non... Guarda, ha detto alcune cose alla quale io ho preferito non replicare, perché insomma ognuno ha il suo modo di esprimersi, è il proprio pensiero, è il sì, mio modo sì. di esprimersi è un'altra. Io e Del Debbio abbiamo mandato in onda alcune cose sì. che cioè, sono andate in onda ieri sera a Quinta Colonna sì. e a un certo punto forse ci è scappato un sorriso su un, adesso non mi ricordo neanche di quale affermazione di Fiorino sì. non certo sul peso, perché penso che in questo momento la mole fisica di Fiorito sia la cosa meno, diciamo, contestabile di Fiorito. Perché ha detto che è disumana, che sei disumana? La mamma ha usato proprio questa espressione, disumana. Sì. Perché rideva... ma forse per lo stesso concetto per il quale ha detto che ho avuto molti uomini, per lo stesso concetto per cui ha detto che ai miei figli deve capitare una disgrazia, insomma varie cose che ha detto, ma va bene. Vabbè, così, perché io comprendo che la mamma possa essere molto scossa, forse non se l'aspettava, non immaginava che suo figlio andasse in carcere, sì. Certo. Andasse in carcere. No, ma poi voglio dire una cosa, magari è successo che qualcuno, ma come è normale che sia, infatti secondo me non c'è nulla per cui prendersela, a meno che non ci siano state proprio cose sgradevoli, ma per adesso non mi risulta, è normale che che quando si parla di certe cose magari si dice, perché questo ha rimproverato tra l'altro dalle cose che ci ha detto, ma ridevano sul fatto che, o comunque contestavano il fatto che gli operai non hanno una lira mentre lui eccetera, vabbè, ma queste sono considerazioni abbastanza normali che avrà fatto qualcuno in studio. Insomma, oggi è uscita la notizia, credo di aver capito e di aver letto, che una Jeep comprata... Sì, una Jeep Wrangler, eccetera, sì, sì. Una Jeep è stata comprata con i soldi, quelli lì famosi, no? Del partito, sì, che poi sono i soldi, sì, nostri. E insomma, uno o fa un sorriso o si arrabbia. Uno ha due scelte facendo una conduzione. In quel momento... Tutti si è incazzati. Io e Del Debbio forse abbiamo fatto un sorriso, però, ripeto, io comprendo. Comprendo l'ira della... Non hai nulla da rimproverarti, comunque. Non hai nulla da rimproverarti. Guarda, in questo momento, con la madre in questo momento posso dire una cosa: in questo momento, fra quattro persone, io, Del Debbio, Fiorito e la mamma, forse, non so, fra quattro c'è uno che si deve rimproverare qualcosa, e non siamo né io né Del Debbio, non so, forse sicuramente neanche la mamma. Beh, però speriamo, io in questo momento non ho nulla da rimproverarmi, e credo di essere stata anche molto comprensiva e molto civile con la signora Fiorito, alla quale, come ho detto in chiusura di trasmissione, auguro pace, gioia e serenità. Bene, grazie, ciao Barbara. Grazie, ciao. A te, ciao. Eccoci qui, 20:20, forse abbiamo trascurato un po', caro Parenzo, la notizia della giornata. Sì, appunto... Che è successo? Sempre con sta pasta alla norma? Sto facendo la pasta alla norma. Ma chi se ne frega? Non me ne frega niente della pasta alla norma. Qui mi stanno squillando 1000 telefoni in contemporanea intanto. Perché? No, e che ne so, mi stanno squillando i telefoni. No, voglio dirti una cosa. Allora, il problema è molto semplice. Tu hai a che fare con la pasta alla norma. Casini invece ha un piccolo problema con Bersani, perché oggi Casini che cosa ha detto? Il signor Casini. Come si fa a dire una cosa di questo tipo, tra l'altro? Cioè, se andassero al governo Bersani e Vendola, in Europa ci sarebbe da inorridire. Così ha detto, da inorridire. Allora io dico subito una cosa: meglio un governo eletto dal popolo tra Bersani e Vendola, meglio questo, che un governo magari scelto dopo le elezioni a guida Monti, il famoso Montobis, che nessuno ha eletto, cioè almeno come scelta del Presidente del Consiglio. Hai capito? Certo, hai capito quello che penso? È questo. A me, e poi scusa, Bersani ha fatto bene, secondo me benissimo, a rispondere a Casini: scusa, ma tu non stavi con Berlusconi, che adesso reputi una sorta di bandito in giro per l'Europa? Questo, cioè, è il punto. Inorridivi con Berlusconi in Europa? Non sei stato insieme a Berlusconi dal 1994 fino al 2006? Cioè fino al 2006, anzi fino al 2008? Cioè fino questo al 2008, per ben 14 anni, ma di che stiamo parlando, su? Di che parliamo? Questo è il punto, esattamente questo è il punto. E mi stupisco che Cesaro sia ancora intervenuto, ad esempio. Io credo che ogni giorno dovremmo leggere una dichiarazione del signor Cesa, ad esempio, ogni giorno una dichiarazione di Cesa. Cesa. Ma dove sei che ti sento ovattato, eccetera? Comunque c'era Carlo dalla provincia di Bari. E sono ancora qui. Mi dica, mi dica. Volevo dire che di solito i maiali non si portano in carcere. In che senso, scusi? Si portano a Macella, riguarda Fiorito, si poteva portare a Macella, non al carcere, perché quello è un farabutto autentico. E così come quell'altro signore che ieri si è permesso di offendere tutti quelli che hanno votato Berlusconi. Lui è un ignorante nato, cresciuto e pasciuto, ed è anche un pervertito, il signor Boncompagni. Andasse a fare in culo. Io fossi lì, ammazzerei tutti quelli come Belsito, Lusi, Belsito, Fiorite e quant'altro. Anche il signor Casini che sta là, come ha detto giustamente lei, che è stato 14 anni con Berlusconi, mo mi viene a dire, Vendola, chi vince comanda, chi perde sta l'opposizione. Che ne facciamo di un mondo di business? Dove ci sta portando? Alla rovina ci sta portando. Sì, però scusi, io ho mandato la piccola ambulanzina perché... No, una. Sì, una. Parla più forte che non ti sento, Parenzo. Caro Carlo, lei ammazzerebbe tutti, alla fine tutti resta solo quelli che stanno in Parlamento, tutti, nessuno è escluso. Nessuno è escluso, via. Come la Francia, tutta la ghigliottina, la ghigliottina. Bene, ma dove si trova lei esattamente? Scusi Carlo, che la vengono a prendere due. Adesso sono a casa. Ma dove? In provincia di Bari, dove? Vengono a due a Monopoli. A Monopoli, esattamente alla via, ce la può indicare che vengono due signori in camicia bianca a fare una piccola puntura? Sì, ce ne fa i bombini, ma ne fa. No, ma stessa buona, Cruce, ciao. Vengono due signori in camicia bianco, Carlo. Giuseppe, sei un grande. No, scusa, vengono due ho capito, ma tu hai detto sono che... Sono arrabbiato con questi signori. Ho capito, ma vuoi ammazzare tutti. E nessuno va in galera, ma che cosa? Qua arrivano bollette tutti i giorni, da pagare, aumenta. Che cosa? È uno schifo. E questi se fregano i soldi... 30-40 mila euro al mese. È un poveraccio e prende 5-600 euro. Beh, questo devo dire che togliamo l'ambulanza per questa cosa qui. Tornate indietro, infermieri, tornate indietro, vi prego, tornate indietro, infermieri. Grazie. Un attimo solo, ti offro una cena. Carlo, scusami un attimo. Scusa, ma perché è matto? Devi dire che è matto. Ha detto una cosa giusta, mentre noi... È una persona violenta. No, lascia perdere la violenza. Adesso per la seconda cosa, per la seconda parte del suo intervento ho fermato un attimo l'ambulanza. Ho chiamato qui dalla regia, hanno chiamato i signori, sono fermati alla periferia di Monopoli, alle porte di Monopoli. Però voglio dire una cosa, caro signor Carlo, lei dice io giustamente devo sbarcare il lunario ogni giorno, mentre ci sono questi che hanno 30.000, 40.000, se comprano una Jeep Wrangler per il gruppo e rubano pure. Vabbè, rubano adesso, bisogna vedere chi, insomma. Tutti rubano, dai, cioè, non diciamo fesserie, rubano tutti. Rubano tutti chi? Tutti quelli che stanno al potere, tutti quelli che stanno al potere, però anche i consiglieri comunali, così consiglieri comunali è un po', mi sembra un po' generico, mi sembra un po' generico. Ma qualche brava persona ci sta, purtroppo nella massa che fa, per fare la frittata devi rompere le uova, capito? E allora gli toglie tutte di mezzo e ti sbrighi subito. Vabbè, caro Carlo, lascio gli infermieri e l'ambulanza. Che vengo a fare a Monopoli, Carlo? Ti mangio un po' di pesce fresco. Ho capito, ma magari. Sembra che quel Boncompagni ce lo fa comprare. Boncompagni, voglio risentire Boncompagni, vi prego, rimandatemi Boncompagni. Io chiudo, non lo voglio sentire. Ciao, Carlo. No, se lo senta, così si arrabbia un altro po', su. Lo senta, lo risenta, così si incazza un altro po', così le sale la pressione, le sale la rabbia. Mi mette a ridere, io devo campare 100 anni, non ti preoccupare. Carlo, lo risenta, non si preoccupare, lo risenta. Non c'è. Angelo da Roma, fra poco, allora lo risenta dopo per radio, va, Angelo. Angelo. Sì, buonasera. Vada. Buonasera. Buonasera, e dica. Sì. Mi sentite? Insomma, un po' basso, però. Angelo, parli meglio, più forte, altrimenti chiudo. Ma non è che ride. Bisogna guardare qui. Mi sente ora? Mi sente meglio? Sì, la sento. Pronto? Vabbè, arrivederci. Alberto da Milano. Buonasera. Dica. Allora, volevo fare un intervento relativo agli stipendi dei politici. In teoria, se fossero alti e facessero bene il loro mestiere, io sarei d'accordo a pagare tutto. Problema può essere invece che se non fanno il loro mestiere, di che casca l'asino. Sì, ho capito Alberto, però questo mi pare scontato, siamo tutti d'accordo, ma detto questo, anche se facessero il loro mestiere, per esempio per andare a lavorare, potrebbero pagarsi tranquillamente il viaggio con lo stipendio, non c'è bisogno di avere soldi in più pure per il rimborso chilometrico, è una vergogna questa cosa qui, una vergogna, il rimborso chilometrico deve essere tolto, abolito, a meno che uno non va in missione, le famose missioni, a parte che ruberebbero anche sulle missioni, a meno che uno non va, come dire, comandato per una cosa precisa e non l'attività politica, perché l'attività politica ognuno se la paga di tasca sua con lo stipendio. Togliere tutti i soldi, affamare la bestia, questo deve essere il mantra. Poi magari si arriva al 10% del finanziamento attuale, a un finanziamento durante le elezioni, si arriva a limitare la cosa, però ripensiamoci dopo. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là. Beh, voglio farvi riascoltare, gentili ascoltatori della Zanzara, grande popolo della Zanzara. Parenzo, ci sei? Sì. Lo senti? Lo senti come friccica la melanzana quando viene messa a rosolare in una goccia d'olio con una puntina di testina d'aglio? La senti come friccica o no? No, fammela sentire. Aspetta, metti il telefono lì vicino alla padella. Aspetta, prima ti ho fatto sentire quello del bagno, no? Giusto? Sì, il bagno quando senti c'era qua. Il signor Fiore che scaricavi, sì, il bagno. Ecco, senti qui, senti. Fammi sentire. Lo senti? Beh sì, sì, avvicina di più. Ma no, giusto, si brucia. Avvicina di più, ma che te frega del telefono? Telefono? Poi te lo compro io che sono ricco, dai. Ah, vabbè, okay. Oh, l'aglio che frigge, l'aglio che frigge, è una cosa tremenda, fa malissimo tra l'altro, fa malissimo. Fa malissimo alla frittura. Ma tu, non ho capito. Tutto quando frigge l'olio, una cosa che fa male alla salute, fa male alla salute, su questo non c'è dubbio. Tu stai facendo la pasta alla norma e stai, come dire, rosolando le melanzane, giusto? Stai, esatto, rosolando le melanzane. Sì, intanto noi abbiamo un ospite che forse se ne frega della tua, del fatto che tu stai cucinando la pasta alla norma e non sai nemmeno come si fa, tra l'altro, perché hai chiesto aiuto a qualche ascoltatore, mi hanno naturalmente scritto, per adesso non telefonato, ma troveremo qualcuno prima della fine della trasmissione. In tantissimi, aiutate Parenzo a fare la pasta alla norma, problema di oggi. Prima dell'ospite, però, volevo sentire il signor Angelo da Bari, perché il signore di Bari prima mi ha lasciato un buon effetto, un ospite che è già con noi e che ha qualcosa da dire sul signor Casini, credo. Angelo da Bari. Buonasera, Angelo, Cruciani. Spenga la radio però, spenga la radio. Buonasera, Cruciani. Vada. Lei è una carogna, detto con tutto il rispetto. Può darsi anche che me ne vanti io di questa cosa, Sì, volevi fare lo scoop con la mamma di Fiorito. Ma non volevo fare nessuno scoop, la volevo chiamare per capire. Hai detto qua non siamo a pettinare le bambole. Ma questo l'ho detto all'avvocato Taormina. Che ne approfitti di una povera madre. Ma non me ne sono affatto approfittato, non la volevo. Sì, ne volevi approfittare tu, ho visto. Perché non te ne approfitti di quelli che gli lisci il pelo, di dell'utrico? Quelli te ne devi approfittare. Scusi, Angelo, abbia pazienza. Ho chiamato la mamma di Fiorito perché la mamma di Fiorito oggi ha avuto uno sfogo molto forte a Canale 5. Aveva ragione, io l'ho vista quella puntata. Diglielo all'amica tua Barbarella. Ma non è amica mia, ma non è un problema. Che voleva fare lezioni di italiano con una povera signora, ripreso, che da Napoli viene, da Nunces viene lei. Beh, quelli, puoi ricordare. I pugliesi regalano sempre qualche cosa di fenomenale. Allora, che regala, la verità, dicono i pugliesi. Sì, voleva fare l'amore, io l'ho vista la puntata, è vero che si è messa a ridere, che da zoccolona vecchia. No, ma stia tranquillo, Angelo, scusi, stia tranquillo. È vero, Crucià, è vero. E tu hai detto a quell'altro beccamorto di Taormina, quello sfigato, sì, che quello Fiorito, oltre ad essere stronzo, questo è il numero uno, si è fatto acchiappare. Sì. Sta due volte stronzo, che poteva scegliere qualsiasi. Ma perché avvocato, lei? Perché si è preso proprio a Taormina. Perché lei è così arrabbiato, Angelo, oggi? E io sono arrabbiato perché non, mi vengono in quando, per esempio, lei non ha detto niente. Su che io cosa? Ti porto il paragone. Sì. Ne ha approfittato della mamma di Fiorito. Ma io non ho approfittato di nessuno. E ne volevi approfittare. Ne volevo approfittare. E poi, vabbè, quando quella testa di minchia di Sgarbi ha offeso tua madre, non hai detto niente. Stia calmo. Mi calmo. Me l'avrei mangiato. Invece lei dice quelle sono cose private, glielo dico in privato. No, lei non può dire i cazzi degli altri alla radio. Questo è numero uno. Cazzi suoi se li puoi nascondere. Un attimo, scusi Angelo, mi può fare la cortesia di stare un attimo calmo, perché non c'è nulla. Ma per... io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere. Bravo, e bravo, io bravo. Faccio il camionista. Bravo. Se ti avrei mezzo alle mani, a polpette ti farei a bravo. Te. Perché? Perché non vieni qua? Perché non vieni sotto il Sole 24 Ore? Via Monterosa. Monterosa 91, vieni. Ma perché io con una mano attaccata vengo, ti ho visto, Crucia, ma c'è da te, mizretri, sì, Crucia, ma c'è cazzo ne da te, ti devi mettere insieme tu e pure altre becchine da parenti, e forse con una mano ce la fate, forse con una mano attaccata. Ma lei è veramente il numero uno assoluto, scusi Angelo, lei non ha mai pensato di fare spettacolo? Non ha mai pensato di andare in qualche cabaret a fare spettacolo? Ma cioè... che cabaret, Crucia, io sto buttato la mattina alla sera in un camion e saluto tutti gli autisti della T-Service, della TNT. Saluti tutti, dica a tutti gli autisti, seguite la Zanzara, lo dica Angelo, lo dica. E io la seguo, non ti preoccupare, sei molto seguito, sei uno stronzo seguito tu, Crucia, veramente. E tu lo sai che più fai ingazzare la gente più ti seguono. Vabbè Angelo, dillo di nuovo, anche se è vero, anche se seguono, dillo tutti gli allora tutti gli autisti della TNT, della T-Service, qualsiasi autista, seguite lo stronzo di Cruciani e quell'altro beccamotto di Parenzo, che quando parla per una gaddina vecchia parla. Ti saluto, Crucia, alla prossima. Ciao dai. Angelo, sei il numero ciao, uno. Ciao. Questa ha iniziato insultandomi, alla fine mi ha fatto uno spot alla Zanzara. Il numero uno totale, assoluto. È con noi. Passiamo veramente dal trash insomma, alla serietà, caro Parenzo. Ti ho invitato una persona seria questa sera per la prima volta. Una persona, credo, abbastanza seria. Parenzo, secondo te chi è una persona di... Stai ancora ridendo? Che stai facendo? Stavo vedendo dell'accusa di essere un beccamorto. Ma non è un'accusa. Cioè, passiamo dal trash a una persona seria, però adesso ti devi ricomporre un po', perché una persona seria. Persona spiritosa, naturalmente, però anche insomma, una certa struttura, cioè non è che stiamo parlando di insomma, di qua, qua, qua, insomma, una persona che è stata nel Partito Comunista, dunque ti do qualche indizio. E, insomma, poi è stato anche nei DS, eccetera, eccetera, eccetera. Già questo per me è ragione di grande profondo rispetto. Tu perché sei quello che sei, però no, perché sei quello che sei, è un mezzo militante, ma va bene lo stesso. No, militante assolutamente no, perché è una storia seria di questo paese. Di vabbè, è un dirigente di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Spero che sia il grandissimo Fabio Mussi. Esattamente. Buonasera, signor Mussi. Buonasera. Ma siete un'interferenza o la trasmissione vera? È la trasmissione vera. Ho sentito all'inizio una cosa, sembrava un'interferenza. Avete presente Televacca di Benigni? Beh, magari ci fa un grande complimento, però. Esatto, così. Sembrava una qualche coda, diciamo. Il televatto che... Ma le assicuro che non c'è... Il conduttore è contentissimo per essere stato insultato da un camionista, il quale però gli ha detto sei il numero uno degli stronzi. E il conduttore era contento, pur di essere il numero uno. Beh, certo. Scusi, le assicuro che non c'è nulla di preparato. Queste cose possono riuscire solo alla radio, lo sa? Cioè la televisione, da questo punto di vista è un disastro assoluto. Confesso che mi piace molto più da radio che la televisione, ma a volte c'è l'impressione di avere sbagliato trasmissione. È vero, invece è capitato qui, caro Mussi, a Televacca di Benigni, naturalmente. Allora, onore a Benigni, no, per carità. Una botta di genio che resterà nella storia. Assolutamente. Scusi un attimo, io le voglio chiedere qualcosa. Oggi ho mandato un tweet, lei conosce Twitter? Sì, ma non li pratico. Non li pratico. Penso di tenermi fuori dal giro. Non c'è niente di male, però, le assicuro che non morde nessuno. C'è tante cose, diciamo, che non c'è niente. Cioè, non di ci male, sono camionisti però... che insultano, anzi, sì, ci sono anche, no, però, insomma. Non c'è niente di strano. L'idea che qualunque cosa debba essere espressa in 140 caratteri è una delle forme della diminuzio, diciamo, dell'umani generis. C'è una diminuzio della mente anche, no? Della mente, sì. Immaginate voi, diciamo, sì. Le confessioni di Sant'Agostino o l'etica di Aristotele, a proposito di etica, che sì, è sempre un... Però si può andare oltre, cioè si può andare anche... 140 caratteri. Lo so, però abbiamo fatto pure dei passi avanti dall'epoca, dall'etica di Aristotele. Per scrivere in 140 caratteri bisogna essere dei geni. È vero, cioè, Flaiano poteva scrivere in 140 caratteri, però a uno normale come noi in 140 caratteri non riesce a dire nulla, diciamo. Allora, la cosa è questa: oggi ho mandato un tweet dicendo, lei sarà d'accordo, meglio un governo con Bersani e Vendola, che io non è che considero così la cosa migliore per l'Italia, però qui siamo nel campo delle mie valutazioni che non contano nulla. Questo è legittimo. Piuttosto che una cosa, cioè esplicita, votata dagli elettori, piuttosto che quelli che sostengono, come Casini, un Monti bis, però dopo le elezioni, cioè non prima con Monti che si candida, cosa super legittima, anche se lui si difende dietro questa roba del senatore a vita che non c'entra nulla, secondo me. Ma comunque, però insomma, questa non è la vostra domanda, questa è la mia risposta. Lo so, infatti non è una domanda. Allora, come considera la frase di Casini che inorridisce? Lei di fronte a Casini che invece che tipo di reazione ha? Lui inorridisce di fronte all'ipotesi di un governo Vendola Bersani. Dunque, io ho fatto il vicepresidente della Camera, Casini era presidente, ma abbiamo lavorato anche insieme. Io, insomma, non inorridiva davanti no, a lei? Non gli voglio male, diciamo. Cassini è venuto ai funerali di mio padre, quindi sì. Tuttavia, diciamo, se si parla politicamente, lasciando stare sì. le relazioni personali, per esempio, io inorridii quando vidi il mucchio selvaggio di ex democristiani, ex comunisti, sì. ex socialisti, ex fascisti, portare in trionfo l'uomo che poi diventerà il mito del burlesque, diciamo, e fargli vincere le elezioni nel 94. Ecco, quella era una cosa lievemente orribile, no? Che Casini che veniva dalla DC, che Fini che veniva dal MIS, che Cicchitto che veniva dal PSI, che Ferrara che veniva dal PC e molti cori intorno portassero in trionfo, diciamo, l'uomo che aveva costruito un partito appoggiandosi su due insigni figure come Marcello Dell'Utri e Cesare Previti. Ecco, quello era una cosa lievemente orrenda, lo sì. dico con tutto il rispetto. Mentre il fatto che ci sia un centrosinistra... Sì. Vabbè, che vuole governare tra Bersani e Vendola? Che si presenta alle elezioni, che chiede i voti, questo lo trovo normale, europeo. Ma infatti, questo, guardi, stranamente mi trova, no, stranamente, insomma, mi trova assolutamente d'accordo. Però, dopodiché, Casini che dice una cosa di questo tipo, oggi Bersani, giustamente, secondo me, ha risposto dicendo, beh, insomma, c'era da inorridire pure quando tu andavi con Berlusconi. Cioè, Bersani ha dato la stessa risposta mia, non l'avevo vista. Vabbè. Sì, è più o meno la stessa risposta mia, bravo Bersani, tuttavia. Diciamo, se Bersani non fosse stato un paio di anni appresso a Casini, dice lei, no? Diciamo che Casini si imbarcasse sulla nave, forse oggi non ci troveremmo in questo ginepraio. Sì, di dichiarazioni, di cose, cioè, no, insomma, Casini non ha nulla a che fare con. Lei dice, ha scoperto tardi che non ha nulla a che fare col PD e con la sinistra. Se non ci fosse stato un aspettando Godot, diciamo, aspettando Casini. Secondo me, quando è venuto Berlusconi, in Italia si era votato come nel frattempo, un anno e mezzo, Portogallo, Spagna, Francia, Danimarca, Olanda, Slovenia, Grecia due volte, cioè come in tutti i paesi europei normali. In Italia no, cade Berlusconi in centrodestra, non si può votare, diciamo, è dall'opposizione. Che si dice che non si può andare a votare. Viene la prima frase che ricordo ancora vividamente, sì. votare sarebbe una sciagura, frase che in democrazia non si può, non dico dire, ma neanche pensare. Ecco, ma lei che cosa la fa inorridire di Casini? Perché questo, invece, oggi Casini ha detto questa cosa qui, invece lei, a parte l'alleanza con Berlusconi, cos'è che la fa inorridire? Io non voglio fare un'alleanza con gli estremisti. No, d'accordo, ma che Casini, cos'è? Casini, per esempio. No, certo, ma cos'è che la fa inorridire di Casini? Per esempio, le sue posizioni sugli omosessuali la fa inorridire? No, certo, ecco, per esempio, inorridire troppo è una posizione. Beh, quando dice che la civiltà. Mondo, quando dice nel che... mondo cristiano ed islamico. Ah, lei dice la posizione di Casini è vicina alle posizioni islamiche. È diffusa nel mondo cristiano ed islamico, sì. Diciamo. Sì. Ma Casini non è solo. Diciamo coppie, matrimoni omosessuali, eccetera, ma si è sempre opposto al riconoscimento delle coppie di fatto, che ormai fra poco verrà introdotto anche in Arabia Saudita. È per esempio contrario al testamento biologico, cioè io non posso scrivere che in certe condizioni non voglio l'accanimento su di me, no? No, basta, basta. Come ha fatto per esempio a Cardinal Mazzini. Non lo posso dire, perché come debbo morire lo deve dire il prete. Cioè, quelle posizioni lì vanno bene anche in un paese islamico, dice lei. Sì, sono posizioni estremiste, non dico legittime, ma estremiste. Quindi quando si dice alleanza con i moderati, ecco, per esempio queste posizioni non sono moderate. Moderato è uno che pensa che tutti abbiano diritto a scegliere il loro stile di vita, compresi, diciamo, i fedelissimi delle religioni. Ecco, ma lei è a favore, per esempio, dell'adozione? I vecchi comunisti, per esempio, erano contrari anche ai matrimoni omosessuali, e anche sugli omosessuali avevano delle posizioni un po' particolari, ma riprendiamo tra un attimo dopo il traffico. Traffico, torniamo un attimo con Fabio Mussi, che lo vedo particolarmente vivo, perché non è che di solito è moscio, però lo vedo molto attrezzato. Forse la telefonata del camionista di Bari l'ha esaltato. Eccoci qui, 800 24 00 24, con Fabio Mussi, presidente di Sinistra Ecologia e Libertà. Voglio subito chiedere una cosa. A questo punto, dopo le schermaglie di oggi, ma non solo dopo le schermaglie di oggi, l'alleanza con Casini è praticamente impossibile, diciamo. Diciamo, la mossa fondamentale l'ha fatta Casini, che ha annunciato una lista civica nazionale a favore di Monti, per un Monti bis. E quindi, diciamo, questo mi pare che chiuda la partita, no? Sì, che ne so. Sì, credo di sì. Credo proprio di sì. Perché, diciamo, Vendola si candida alle primarie, Bersani anche si candida, ma per fare il presidente del Consiglio, non per fare il vice di Monti. Parenzo? No, dico che però se dovesse vincere queste primarie alla fine Renzi, non è che ci sarebbe molta differenza che non un'alleanza con Casini. Se vince Renzi, lei che fa? Mussi, lei, insomma, secondo me, Vendola, che dovrebbe fare? A Renzi è di destra? Non so, io passo alla terza fase della vita suggerita da... Anzi, mi metto sul limitare fra la terza e la quarta suggerita da Cardinal Martini. E quale sarebbe? Quale sarebbe? Dice, nella prima fase della vita si impara, nella seconda si insegna, nella terza si riflette nel bosco e nella quarta si mendica la vita. Io mi colloco tra la terza e la quarta se vince Renzi. Cioè basta politica, anche pensare, nulla. No, bisogna pensare, ma non è necessario. Io attualmente non sono in Parlamento, non intendo tornarci. Sì. Anzi, penso, ecco qui, diciamo così, dico una cosa che forse a Renzi non dispiace. Penso che la mia generazione dovrebbe fare un passo indietro. Abbiamo dato, abbiamo fatto. Anche D'Alema? D'Alema compreso? Sì, compreso, sì. Ma com'è che c'è questo accanimento tra Renzi e D'Alema? Uno dice, Renzi, io l'ho criticato anche oggi, se vinco io basta D'Alema in Parlamento, D'Alema a sua volta dice che addirittura il PD è finito se vince Renzi. Ecco, dunque, è che secondo me quelli della mia generazione, passati 60, che hanno fatto 15, 20, 25 anni di Parlamento, potrebbero anche uscire dal Parlamento, non dico uscire dalla politica, perché l'idea che politica e seggio sia la stessa cosa è un'idea malata, no? Sì, sì. Si può fare politica e contribuire con il pensiero senza essere tutti seduti in Parlamento. Però penso che quando D'Alema dice se vince Renzi salta il PD e il centro-sinistra, dica una cosa realistica. Ah, è realistica, Cioè, è vero, se vince Renzi esplode il Partito Democratico, diciamo. E anche centrosinistra, immagino, diciamo, perché francamente ora tutto possibile in questo paese, ma insomma. Este modus in rebus. Ecco, però voglio dire, perché tutta questa gente che ha votato centrodestra, sono tantissimi, le posso assicurare, magari li conosce anche lei, Mussi, ci sono tantissime persone che hanno votato centrodestra, le quali sono disponibili a votare Renzi. Cioè, però c'è una riflessione da fare su questo, non è solamente il fatto di dire in maniera scontata, sì, Renzi dice idee che sono più o meno di destra, perché magari destra e sinistra sono categorie... su cui si può anche riflettere, cioè, c'è qualcosa che indica che destra e sinistra sono due categorie superate, è la più grande favola, è una favola, vabbè, che si racconta, perché in Spagna sono anni che si alternano un partito che si chiama socialista obrero e l'altro popolare, si chiama Partito Popolare. Ma lei lo vota alle primarie? Se dovesse vincere, lo vota poi come Presidente del Consiglio, Renzi? Ho detto che passa ad una fase meditativa. Cioè, non lo vota? Rifletterò su... rifletterò. L'opportunità di esprimere un voto o no. Cioè, è fortemente tentato, se vince Renzi, di non andare a votare? Diciamo, no, andare a votare non si va, mai non si va a votare, ma di non votarlo, di non votarlo. Di non votarlo. È di destra, esplicitamente di destra, diciamo la verità. No, voglio dire, insomma, soprattutto dopo quello che è venuto fuori, ad uno che si candida leader del centro-sinistra, la frase di fronte ad un misirizzi col maglioncino italo-canadese che arriva e dice se gli operai vengono tutti qui a testa china io investo 20 miliardi di euro, come minimo uno dice sono come San Tommaso, se non vede non crede. No, il primo a dire con Marchionne senza se senza ma è stato Renzi. Grazie Mussi, grazie, buona serata, buona cena. Sento Zito da Catania, vuole dare una ricetta della pasta alla norma, ci sentiamo domani 18:30. Mi fa paura, ti ma giuro. Non sono così male, ti giuro. No, ma mi fanno paura, mi fanno paura. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Seguite lo stronzo di Cruciani e quell'altro beccamotto di Parenzo.